Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock con qualche velocità alla fine verso il rush finale, che è sempre il bello della diretta, diciamo. E sono qui all'ultima intervista per quanto riguarda il 2024. Mi sto già mettendo nel mood di dire 2025, ma in realtà devo ricordarmi ancora che siamo nel 2024. Quindi come stavo dicendo, siamo all'ultima intervista come dicevo appunto per il 2024, recuperata all'ultimissimo, che così in modo da chiudere anche questo anno con un sacco di interviste, un sacco di ospiti, in modo da avere da aver intervistato tantissime persone, non aver fatto solo le puntate classiche. Qualche piccolo spoiler: mentre mi sto collegando con i ragazzi che avrò qui appunto in intervista, da un piccolo spoiler, diciamo, da una parte romagnola a un'altra parte romagnola, perché comunque ci saranno sempre ragazzi romagnoli, quindi in collegamento con me. E dicevo, qualche piccolo spoiler: prossima domenica, il 22, non può mancare il classico appuntamento per quanto riguarda lo speciale Natale, e quindi, come spesso capita, quest'anno è capitato il 22, quindi anticipo leggermente rispetto a quello che possa essere effettivamente il Natale. E ultima puntata per il 29 di dicembre, sarà una playlist lunga, quindi anche qui un altro piccolo spoiler. Poi, come di consueto, lasceremo le prime due puntate, saranno dedicate del 2025 per quanto riguarda a quello che è stato quel 2024, quindi con la top 10 internazionale, diciamo, e poi la seconda puntata del 2025 dedicata alla top 5 italiana, quindi agli album che mi sono piaciuti di più per quanto riguarda il 2024. Ma come dicevo, passiamo all'intervista speravo che l'ultima puntata per quanto riguardava le interviste fosse un pelo più tranquilla, un po' più calma, e invece purtroppo c'è sempre un po' di frenesia. Però comunque momentaneamente riesco ad introdurvi chi ho effettivamente in intervista, che sono i ragazzi degli Oney, che sono usciti con il nuovo album, un titolo un po' curioso rispetto a quello che si potrebbe pensare. Adesso ve lo vado a dire: Text, Rugs and Rock and Roll. Quindi magari quello dopo ne andremo a parlare effettivamente con loro. Però effettivamente, se non ricordo male, dovrebbe essere proprio un primo tipo debut album, perché alla fine non contando tutti i vari EP in precedenza. Però comunque, intanto io, ragazzi, vi saluto e potete salutare anche voi, che così non sembra che sto facendo delle ciofecate. Quindi ciao ragazzi, come va? Ciao, tutto bene, caro. Ci diamo dentro, anche se è domenica sera. Oh, bene, bene. Non ci stiamo risparmiando. Bene, bene, dai, l'importante è quello, essere sempre carichi, bene o male, nonostante tutto. Sono un attimo in frenesia e avevo scritto a Luca, detto: ma ragazzi, forse non riusciamo un attimo perché c'è qualche piccolo problema tecnico, ma con qualche minuto di ritardo siamo riusciti. Quindi mi fa piacere, se non lo sapevate, perché ho capito che siete un pochino di più, siete l'ultima intervista del 2024, quindi avete questo onore a chiudere per quanto riguarda le interviste di Let's Talk More Rock del 2024, quindi non so se... Grande onore. Molto contento. Piccolo grande onore, diciamo, dai. Perché no, sì. Allora, adesso, mentre cerchiamo di sistemare anche il problema, le dirette di Instagram, che andiamo dopo a parlare anche su quello, che così è un attimo più interattivo, intratteniamo un attimo, perché ho buttato basi su basi in questo momento per poter andare avanti un attimo, per evitare grossi buchi. Come dicevo, ho una domanda introduttiva, quindi mi sembra di aver capito che adesso siete lì in due con il vostro telefono, quindi... Sì, siamo due. Adesso sì, continuiamo da WhatsApp o ci dobbiamo spostare? Adesso continuiamo un attimo da WhatsApp, appena metto il pezzo facciamo il cambio. Come dicevo, un attimo una domanda introduttiva, adesso avrò la risposta da voi due. Intanto, in modo molto breve, come sicuramente sapete, c'è la domanda, c'è il NoFX che sono sciolti praticamente qualche mese fa. E quindi la mia domanda è molto semplice, ma so che c'è tanto da parlare, ma vi chiedo un attimo di essere il più brevi possibili, perché la domanda, come dicevo, è molto semplice ma complicata da rispondere. Cosa sono per voi NoFX? Ma allora, quello che sono per noi è soprattutto quello che hanno creato anche, diciamo, a livello proprio di impronta, di che cosa è una band e di che cosa è una punk rock band negli ultimi 30, ma forse anche dai 35 anni. Il fatto di essersi sempre proposti come una band, sì, punk rock, sì, rock and roll soprattutto, anche ad ampi tratti. Ma sarebbe molto facile dire, molto scontato di dire che sono state un'ispirazione per, tanto per noi quanto per tanti altri, ma è stato proprio probabilmente il genio proprio di Fat Mike di rinnovarsi continuamente, di essere sempre al passo coi tempi, di trovare sempre ispirazioni nella quotidianità oltre che nel passato, e di essere il più lungimirante di tutti. Anche i frontman, anche dal punto di vista, diciamo, forse imprenditoriale non è forse il termine giusto, però è quello che ha creato una cultura che comunque con gli anni si è continuamente rinnovata e ha creato forse e ha mantenuto per più di tantissimi altri il concetto di scena, cioè lui muove delle masse attorno a questo tipo di musica, e come onestamente non l'ho mai visto fare. A volte anche tanto sacrilego, sicuramente anche abbastanza abrasivo per tanti, però unico e probabilmente inimitabile. Mi riferisco a Fat Mike perché penso che l'essenza poi sì degli NoFX sia diciamo lui, ecco. Sì, in primis sì, effettivamente sì. Come dicevo, sono qui con 10 in realtà, perché ho capito che il soprannome tuo è questo, ma non ci siamo mai presentati, quindi con chi sto parlando effettivamente a livello di nome? Sì, tu stai parlando con 10, poi qua di fianco a me c'è Ricci. Ciao. Okay. Luca diciamo che è impegnato a farsi mordere dai cani, però non appena si riesce a vincolarsi dovrebbe raggiungerci. Sì, sì, no, infatti mi ha raccontato l'ultimo piccolo problemino che ha avuto anche lui all'ultimo, quindi c'è stata una concomitanza di piccoli problemi, esatto. Quindi qui tecnici da questa parte e purtroppo a livello di animale dall'altra parte, perché ha avuto un piccolo problema con la sua cagnolina. Quindi calma e pazienza, rientriamo in diretta dopo effettivamente esserci ascoltati un brano degli Honey. Penso che questa, adesso non mi ricordo quale altra domenica ho avuto un sacco di problemi anche tramite la tecnologia, che quindi dici tecnologia portami via, ma in realtà aiuta relativamente il giusto. Però direi che ci sentiamo, ragazzi, ci siete anche voi su Instagram, dimmi di sì perché sennò è un casino. Ci siamo, fantastico, benissimo, allora ci siamo, l'importante è quello. Rientriamo con la diretta, quindi la cosa che ti stavo chiedendo prima era per il discorso di quanto riguardava il titolo di questo curioso titolo, che sarebbe il classico Sex, Drugs and Rock and Roll, e voi l'avete un attimo leggermente storpiato con Sex, Drugs and Rock and Roll. Come è saltato fuori questa curiosità, diciamo? Ma diciamo che è la più becera delle reinterpretazioni, semplicemente. Forse riassume anche tanto quanto vorremmo fare le rockstar, e praticamente poi magari non sempre ci riusciamo a farlo, però la volontà, magari l'attitudine sarebbe anche quella. E storpiandolo ci è sembrata una frase che diciamo sembrasse divertente, ecco, e soprattutto lo riassumesse anche in chiave moderna, cioè il fatto di essere continuamente appiccicati ai telefoni con il texting, e il rock and roll è più o meno quello che conoscete già tutti, quella è l'unica cosa originale. Forse il fatto del Rax è una piccola citazione del Grande Lebowski, al quale doveva essere ispirata un po' la qualche canzone o qualche, diciamo, parte della grafica del disco, ecco. Sai che i Pino ma fucking rock, il film dei fratelli Coen, non so se okay. È noto ai più o ai meno, però siamo grande fan di quel nonsense humor che ha contraddistinto il film, allora l'abbiamo infilata, diciamo, in qualche angolo del titolo del disco. Allora ci sta, effettivamente. Io pensavo semplicemente fosse per non è il politically correct, pensavo sinceramente inizialmente quando ho letto Sex, Drugs and Rock and Roll, dice vabbè, per evitare di fare il classico Sex, Drugs and Rock and Roll, io mi faccio il politically correct senza citare né uno né l'altro, mantenendo semplicemente il rock and roll. In realtà è molto più figo, ovviamente, come l'avete studiata voi, quindi complimenti, senza aver buttato nulla al caso, per modo di dire, quindi bella intuizione. Più o meno. Più o meno, diciamo, o magari è stata fuori un attimo così per caso, però comunque molto, molto, molto divertente e molto carina come interpretazione. Tornando un attimo prima della pubblicità effettivamente all'album, questo effettivamente, se non sbaglio, da quello che ho visto da Bandcamp o Spotify o quant'altro, è il primo è il primo album questo che fate rispetto agli vari EP che avete tirato fuori prima. Diciamo che prima ci siamo misurati su delle distanze, su delle lunghezze leggermente più inferiori, erano 5 o 6 massimo, sì, 5 credo fosse, 5-6 pezzi il massimo che avevamo prodotto finora. Questi qui andiamo un pochettino più lunghi e riusciamo ad allegare qualche canzone in più, in modo da dare una forma un pochettino più completa, diciamo, al lavoro e all'espressione del disco in sé, diciamo. Ah, ok, quindi ci sta effettivamente, perché ho notato che salta fuori spesso questo discorso magari tra singoli, EP, album, quindi a parte un discorso anche di prezzo, perché ovviamente immagino che avrete fatto tutto in DIY, comunque con senza grosse produzioni dietro, per modo di dire, effettivamente di conseguenza i soldi li tirate fuori voi, quindi quello che avete a disposizione uno può fare, di conseguenza uno riesce e dice vabbè, oh rega, sto giro, andiamo avanti con un EP, il prossimo speriamo di fare un album. Mi fa un sacco piacere che siete riusciti comunque a tirare fuori un album dopo diverso tempo, quindi tanto meglio. Sì, in realtà il disco è stato registrato, praticamente è finito, ultimato alla fine del 2019, è stato registrato durante l'anno 2019, poi ultimato, credo il master sia addirittura di dicembre, probabilmente dei giorni nel quale diciamo adesso stiamo facendo questa intervista. Poi dovevamo uscire diciamo con una parte anche di promozione, anche che poi con il Covid è saltato praticamente, cioè ci è esplosa in mano qualsiasi cosa, e quindi l'abbiamo cercato di prenderci un attimo le misure degli anni che hanno seguito e capire un po' dove stavamo andando tutti con i concerti, il modo di potersi aggregare e tutte queste cose qua, e quindi il disco ha risentito anche un po' di questo stop, diciamo, che non potevamo prevederlo, ma esce oggi come esattamente avevamo registrato tempo fa. L'unica cosa che magari è più recente è la realizzazione dell'artwork del disco e un pochettino diciamo quello che è successo quest'anno a livello di promozione, ecco, che l'abbiamo deciso quest'anno, però i pezzi, diciamo, sono stati scritti quasi 5 anni fa, infatti praticamente noi ne avremo pronto quasi un altro, ecco, basterebbe registrarlo. Beh, in questi anni ci siamo dati da fare tanto meglio, quindi a sto punto ne riparleremo anche nel 2025. Esatto. Seconda parte di Lestorm Rock, speriamo sia leggermente più meno caotica rispetto alla prima, tutte un po' il disastro e gli imprevisti della prima parte, quindi adesso è tutto più tranquillo, tutto più rilassato, quindi siamo tutti più tranquilli e sono sempre qui in collegamento con 10 e Ricci. Come vuoi. Tra l'altro Ricci, se non sbaglio, è il batterista anche dei Royal Cheaters. Sì, è lui. Esatto, perché avevo intervistato Lena. Ah, sì. Lena qualche tempo fa, e quindi ricordando nelle immagini che mi avete mandato, ho detto ma io l'ho già visto questo e suona anche Negli Oni, giustamente. Okay. Sì, esatto. Siccome non te l'abbiamo potuto proporre con Lena, allora te l'abbiamo scongelato in questa intervista qua, esatto. No, anche perché fare la doppia con Lena era un po' un problema, perché lei è in diretta dallo stesso account, diciamo, perché lei abita in Germania, da quello che ho capito, quindi era un po' un problema anche quello. Comunque, rientrando nella calma e nella pace della seconda parte, come dicevo, e anche con un tono un po' più catartico, per modo di dire, come diceva un vecchio comico Zelig, torniamo a parlare con gli Oney di questo primo album, che nella prima parte ma è spiegato benissimo per quale motivo, anzi ho capito sinceramente perché questo album, quando ho parlato con Luca al Sick Bus, era già uscito. Era già uscito questo disco. Ho detto: ragazzi, come fate ad avere già tutto adesso con un album che uscirà verso fine anno? E adesso ho capito tutto, quindi ovviamente te l'avrei chiesto e mi fa un sacco piacere aver capito anche questo discorso. Tornando alla band, un'altra domanda classica che vado a fare, così in modo da sponsorizzare nel caso ne aveste, date degli Oney da qui a fine anno, che anche se manca poco a fine dell'anno, oppure già per il 2025. Ma guarda, ne abbiamo fatta la release del disco qualche settimana fa, grande senso che ha appena messo il cuoricino, anche merito suo se l'abbiamo fatto la release al Sidro di Savignano su Rubicone, e per il fine dell'anno non ce ne saranno altre. E stiamo mettendo giù le date, diciamo, dell'anno nuovo, e una piccola anticipazione: dovrebbe esserci una data molto bella circa a metà marzo, e sicuramente ne seguirà qualcuna prima, e sarà, diciamo, teoricamente in centro Italia, forse un paio di date verso il 14 il 15 marzo, le stiamo qui dando in questi giorni qua, quindi state sintonizzati, amici della Middle Italy, e stiamo arrivando, non perdetevi gli shows. Oh, bene, buona a sapersi, bene, quindi l'importante è quello. Comunque avete qualcosa da qualche live da dover fare. Io doveroso. Dici che cazzo, se no alla fine doveroso. Dopo 5 anni, se riuscite a tirare fuori il disco, lo fai neanche un live. Sei proprio. Che cazzo. Come lo si promuove anche. Se non mi ricordo male, avevate aperto a Leguego in Satanic Surf diversi anni fa? O mi ricordo male io? A primo ai NoFX? No, era No Fun at All. Okay. Avevamo suonato nel festival con Satanic Surfers. Ah, sì? Il fest, sì. Screech Weasel. È vero, la prima edizione la prima edizione sul Parco Pavese, quella con sì. NoFX da una parte e Screech Weasel dall'altra, è vero. Allora, non lo so, perché mi ricordavo che all'Estragon con la Guigo e Satanic Surfers, ma magari forse era un'altra... No, era una Bologna con No Fun at All, mi sembra. Sì. Ok. Sì. 2017 ancora. Sì, 2017-2018. Vabbè, dai, quindi anche voi comunque qualche data di tutto rispetto siete riusciti a farla, e di un pelo di notorietà siete riusciti. Eravamo l'anno dei Leguegon in Florida, al The Fest. Dove c'erano anche proprio forse loro. Ok, sì. No, io sì, era un'altra data, però mi fa 2018. Piacere. 2018, esatto. No, sì. Però mi fa piacere che siete riusciti a suonare al The Fest, che comunque ho capito che comunque è un festival che ascolta anche le piccole band, e sì. Se una band ha possibilità di andare là, e non è difficile che effettivamente riescano a infilarla nella scaletta lunghissima che hanno, quindi fa piacere che siete riusciti ad entrarci anche voi, che così sì, avete... Sì, tra l'altro... In quell'anno successe che quando suonammo al The Fest, diciamo che c'è praticamente una venue dedicata alle band straniere che si chiama Illusis, probabilmente molti la conoscono, ci hanno già visto alcuni concerti, e quando eravamo sul palco c'erano alcuni che cantavano le canzoni nostre, e noi ci guardavamo come per dire: ma come cazzo hanno fatto a sentirle? Probabilmente eravamo entrati in qualche playlist di Spotify, c'era questa ragazza canadese che sapeva i pezzi, li cantava, e noi, no, insomma, era una cosa che non davamo per scontato, ecco. Quindi è stato anche molto abbastanza, dai, carino, emozionante, si può ancora dire. Certo, certo, no, dai, ma che figata, figata, bello, esatto. Bello, bello. Sono quelle piccole cose che comunque ti danno un minimo di... ti scaldano, sì, il cuore, per modo dire. Ti fanno... accorciano anche le distanze, insomma. Anche, perché dici, questa dal Canada è venuta al The Fest e conosceva i testi di una band italiana, quindi sai, fa un sacco piacere. Ci andiamo ad ascoltare un altro brano degli Oni, come dicevo, dal loro album Tex, Rugs and Rock and Roll, Mine. Se avete qualcosa da dirci, da dirmi prima di lanciare, se no lancio il pezzo, ci sentiamo dopo. Ma guarda, visto che prima mi hai chiesto il senso del titolo del disco, e dai, ti ho dato una spiegazione che vuole anche essere un po' vaga in modo da creare curiosità, qua invece la interpretazione è libera, visto che mai in tante lingue, non solo l'inglese, vuol dire tante cose, quindi buon ascolto. Ah, ok, va bene, interessante. E riprendiamo, intanto stavo cercando di estrapolare qualche notizia per quanto potesse riguardare il nuovo album, appunto, degli Oni, magari effettivamente da sentirci anche il prossimo anno o comunque nel 2027. Comunque dicevano che comunque è in fase, è in un cantiere, quasi tutto fatto, ci vuole un po' di stato scritto, diciamo, esatto. Poi manca per registrarlo, diciamo, aggiustare un po' i testi e queste cose qua, che sono la cosa molto più impegnativa che scrivere le canzoni. Ah, è arrivato anche l'altro, guarda. Esatto. Anche Luke sta guardando questo video in diretta. Hola. Grande, sì. Ti sei fatto mortificare. Dai, racconta la storia. Quindi, esatto, adesso andiamo a concludere effettivamente con Luca, che si è connesso effettivamente anche lui alla diretta, è riuscito a sistemare tutto, quindi dici brevemente cosa è successo all'ultimo, perché... In pratica ho portato la cagnolina Amy di sotto e tornando su si è rotta l'unghia contro la scala, quindi... Dopo è difitta solo, non sapevo come tenerla ferma, così mi ha anche morso. Vabbè. Però, tutto a posto adesso? Più o meno, sì. Ok, vabbè, più o meno è già qualcosa rispetto che tamponato, no. Tamponato. Ok. Allora, stavamo parlando appunto con gli altri ragazzi del nuovo album dei Tex, Rugs and Rock and Roll. Quindi hai qualcosa da aggiungere tu intanto in questo momento rispetto a quello che potesse essere, ha detto che l'album del 2019 che finalmente ha visto la luce quest'anno, un po' ha spiegato il discorso del titolo, questa sorta di storpiatura di Tex, Rugs and Rock and Roll. Esatto. E quindi a sto punto vi vado semplicemente un attimo a chiedere qual è il vostro pezzo preferito. Io ho capito che uno è Mine. Sì, il pezzo solo uno se ne può scegliere. No, certo, cioè, i pezzi sono 12, se non mi ricordo male, 12, 14. No, uno sarebbe troppo, è troppo cattiva, almeno tre. Dai, i favorite, i miei, Mine sicuramente. Solane non e The Rest of Squandred. Ok. Allora, quindi a sto punto ti vado un attimo a fare una domanda a ritroso. Ma hai girato altri pezzi? Quindi quelli che preferiti da tutti? No, ho girato Mine, sì? Fooled Again, sì? E Never Touch Your Idols, che secondo me comunque, cioè, sono pezzi comunque... A mio gusto, quei tre che ti ho detto, però secondo me anche a vedere da come la gente ha reagito, diciamo, all'uscita, sono quelli comunque piaciuti di più, quelli. Ok. Sì, in cima agli ascolti di Spotify, ma c'è il motivo per il quale Never Touch Your Idols sia la prima ci sfugge, io non penso sia la canzone in sé necessariamente, probabilmente, non so, è una frase usata da qualcuno per... dire qualche cosa, noi non lo sapevamo perché ha fatto più di 2000 ascolti, ma è un pezzo che raramente portiamo anche ai live perché si discosta un pochettino, ecco, e per raramente intendo mai. Proprio, i gusti, proprio no. Insomma, succede, dai. No, vabbè, ci sta. Mi ricordo, parlando adesso, prima di andare a mettere un altro pezzo, ricordo che avete detto che era uscito nel 2019 questo album pronto, piuttosto che farlo uscito, ovviamente era gli anni più o meno del Covid, più o meno, quindi 2020, tutto quel casino là, piuttosto che reinventarvi in acustico, avete aspettato tempi migliori? Avevamo, sì, durante il Covid vedevamo che comunque moltissime band magari facevano versioni acustiche di pezzi già usciti. Noi avevamo fatto quella di Recovering in Los Angeles, che era un pezzo uscito nel 2017, così per far uscire qualcosa, perché appunto avevamo sto disco pronto, però live non si poteva suonare, non si poteva girare, non si poteva fare niente. Abbiamo detto, lo pubblichiamo adesso per suonare quando? Tra 2 anni. Esatto. Allora dai, l'abbiamo tenuto lì, poi un po' di pigrizia, un po' di cose, ci siamo rimediati adesso. Da poco. Con calma, però come avevano leggermente spoilerato anche gli altri ragazzi, dicevano che probabilmente c'è già qualcosa in cantiere, quindi sì, sì. Quindi anche quello è molto positivo, quindi magari recuperate i 5 anni, diciamo, di attesa di questo album con 2 album, uno attaccato all'altro praticamente, quindi sì, anche perché io preferisco far meno pezzi, ma cioè almeno una continuità, è anche più facile. Meno, più facile e meno faticoso registrare, perché registrare un disco è un'impresa, cioè certo, si fa, tutto quello che serve. I dischi se ne fa uno ogni tot di anni, dai, EP più così è più la volée, diciamo. Va bene. E come dicevo, siamo praticamente agli sgocci di Stolmore Rock, quindi a conclusione appunto dell'intervista un po' caotica, un po' tranquilla, de coglioni, però comunque sono contento di essere riuscito a farla lo stesso questa intervista, quindi un po' diversa da tutte le altre. E vi vado a chiedere semplicemente, c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? Non c'è tanto tempo, sappilo. Di solito, non so, se vuoi fare giusto un'analisi dei brani, di solito magari ti posso dire che se può essere una curiosità, Luca è quello che, diciamo, è più facile che abbia le idee per le linee della voce e magari alcuni parti di testo, e poi gli arrangiamenti li facciamo, diciamo, tutti quanti, tranne magari qualche testo che ce lo siamo diviso fra me e lui, ecco, praticamente. Per esempio Mine, se vogliamo fare una, diciamo, una divisione del genere, Mine è il testo è mio, ma la musica è sua, e certe volte ci invertiamo i ruoli. Forse è questa un po' la ricetta che definisce il nostro modo di scrivere le canzoni, diciamo. Sì, ci sta. Poi capiamo abbastanza in fretta anche per le robe da infilare, diciamo che siamo sulle stesse vibes. Vuoi copiare il testo? Beh, assolutamente sì, quando saremo dalla SIAE, oltre a dargli poco, scriveremo anche che le prebende vanno a metà. Diciamo che abbiamo cercato di mescolare un po' di canzoni un po' vecchio stile, diciamo un po' più di punk rock, abbastanza veloce, anche abbastanza teso, no? Con i pezzi abbastanza immediati, e in alcuni pezzi abbiamo abbassato un po' senza volerlo, però un po' i battiti, quindi ce ne sono alcune che sono leggermente più rilassate. Ce n'è anche una che mio caro amico l'ha definita un po' Weezer, un po' Ash, fine anni 90, primi anni 2000. Quale? Prince Albert viene definito dall'APA un po' va Ash early 2000 o Weezer late 90s, quindi no, tutte cose che possono incuriosire. Ci può stare. Io, ragazzi, devo andare effettivamente a chiudere e mettere l'ultimo pezzo, se no non ho più tempo. Nonostante un attimo il casino, mi fa piacere della disponibilità vostra e di avervi intervistati, quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima, spero di rivedervi presto. Dai. Ciao. Grazie, ragazzi. Mille. Ciao. E come di consueto, buon punk rock a tutti.